al piuma al vento muto l'agento e di pensiero sempre un amabile leggiadro viso il pianto il riso e menzognero la donna immobile qual piuma al vento muto l'agento e di pensiero è sempre misero chi a lei s'affida chi le confida mal cauti il core ormai non sentesi felice appieno chi su quel seno non li d'amore la donna è mabbile qual piuma al vento muto la certo e di pensiero e di pensiero Oh, Oh!